in primo piano. Buongiorno a tutti, ben ritrovati da Lionello Mancini. Siamo insieme anche questa mattina per la rassegna stampa. I giornali di oggi riportano tutti una identica foto sulle prime pagine, almeno i principali quotidiani, la foto dei due italiani rapiti in Africa. Sono un siciliano e sua moglie, originaria del Burkina Faso ma italiana. E questa fotografia sicuramente drammatica, loro sono seduti in terra dietro tre o quattro persone armate di grandi fucili mitragliatori e ovviamente con il viso travisato, il volto della donna cancellato dagli stessi rapitori, credo per qualche motivo legato alle loro credenze o usanze in fatto di donne. Ecco, questo tema di oggi è un po' il filo conduttore che attraversa tutti i giornali, che anche se ciascuno di loro poi ha delle notizie che altri non hanno. Allora, per questo motivo io penso che siccome il fatto di questo rapimento, per esempio il titolo della Repubblica è Al-Qaeda guerra all'Occidente, sgozzeremo i nuovi crociati, Obama che risponde li colpiremo ovunque, converrebbe, penso, e quindi faremo così, converrebbe provare a capire meglio che cosa sta accadendo, se è di nuovo una recrudescenza di questo scontro tra culture, civiltà, modi di intendere la religione e la convivenza civile, con delle analisi che troviamo sui diversi quotidiani. E partirei proprio da John Lloyd, che è un giornalista del Financial Times, che però che collabora, che scrive su Repubblica, che traccia questo profilo dell'attentatore che, ricorderete, qualche giorno fa aveva tentato di farsi esplodere in volo, e con lui tutti i passeggeri, di questo volo tra l'Olanda e Detroit. Allora scrive John Lloyd: la domanda che tutti vorremmo rivolgere a Umar Farouk Abdul Muttalab è la seguente: com'è possibile che con la sua giovinezza, la sua intelligenza, la ricchezza di suo padre, l'istruzione modello e l'esposizione al liberalismo occidentale sia potuto diventare un estremista? Questa è la domanda da cui parte Lloyd, e l'analisi che fa è la seguente. Dietro a questa domanda si cela una semplice constatazione: che un giovanotto con tutti i suoi vantaggi e benefici, quel background, dopo aver vissuto a Londra molti anni prendendo perfino una laurea in ingegneria all'University College, non dovrebbe essere così. Riteniamo insomma che egli dovrebbe essere come la maggior parte di noi, disposto a diventare parte integrante di una società libera e aperta, ad avere idee moderate, a essere prima di ogni altra cosa impaziente di vivere la vita appieno e non di porle fine con quel piccolo olocausto che era intenzionato a portare a termine sui cieli sopra Detroit. Quindi la sua analisi, l'analisi di Lloyd, prosegue dicendo che noi abbiamo avuto dei precedenti in Europa, fa questo paragone con i terroristi interni, Baader-Meinhof in Germania o le Brigate Rosse da noi, e dice ancora che ecco, benché il loro terrorismo non abbia mai avuto le ambizioni e la portata di quello di Al-Qaeda, quei gruppi estremisti, quindi i nostri terroristi, diedero effettivamente vita a qualche soggetto invasato dalla cocente convinzione che il sistema capitalista era il male, che la democrazia in stile occidentale fosse insensata e che per abbattere il sistema fosse necessario uccidere. Quegli uomini e quelle donne soffrivano di quello che potremmo chiamare il complesso di Savonarola, in riferimento alla figura del frate fiorentino che cinque secoli fa avvertì un irrefrenabile impulso a condannare e perseguire a morte tutti coloro che riteneva fossero esempi di una vita diabolica e che esecravano la contemplazione di Dio o di un'idea. Ecco, quindi paragonato, cioè per le radici occidentali, la figura di Savonarola è quella identificata dall'autore come ispirazione. E per quanto riguarda i terroristi invece di cultura islamica, dice Lloyd, Abdul Muttalab e coloro che hanno agito o stanno complottando di agire al suo stesso modo hanno ereditato questo approccio, ma vi hanno aggiunto un'idea più definita del nemico da prendere di mira. Dove un marxista europeo poteva considerare il sistema capitalista democratico un abominio, ma ne era in ogni caso e suo malgrado parte, un giovane musulmano nigeriano ha potuto ritenere che l'imperialismo cristiano occidentale avesse invaso le terre musulmane. Ed ecco così, continua ancora Lloyd, e conclude: gli uomini come Abdul Muttalab non sono come noi ci aspettiamo che siano, perché hanno abbracciato un'ideologia dominante e, per noi, terrificante, che guida ogni loro azione e ispira le loro stesse vite. Del resto non è trascorso molto tempo, meno di un secolo, da quando nel cuore stesso dell'Europa nacquero personaggi che si macchiarono di ben peggio rispetto a quello che i terroristi di oggi sono riusciti a fare finora. Il tentativo di Abdul Muttalab di compiere un massacro, sventato grazie all'apprezzabile eroismo del regista olandese Jasper Scuringa e di altri, ci ricorda che il mondo che costoro vorrebbero creare ci riporterebbe a qualcosa che appartiene al nostro passato europeo e che dilagò in buona parte nel continente poco più di 70 anni fa soltanto. Se vogliamo garantirci un futuro, non dobbiamo dimenticarci. Quindi c'è questo riferimento al nazismo, non certo come ideologia ispiratrice, ma come effetti che potrebbero avere. Sulla ovviamente le pagine poi di Repubblica proseguono su questo tema con pagine e pagine di cronaca legate al rapimento dei due italiani, lo sviluppo delle indagini, eccetera. Sul Sole 24 Ore a pagina 9 Alberto Negri analizza invece la situazione in Iran. Ricorderete, ne abbiamo parlato anche ieri, i giornali ne sono ancora pieni, sono ripresi gli scontri ed è ripresa la repressione. Infatti il Sole a pagina 9 titola: in Iran decapitata l'opposizione, retata di sostenitori di Mousavi, la televisione ammette 15 morti. Le reazioni: Obama, stiamo con i manifestanti e condanniamo il pugno di ferro brutale, tra virgolette. Fermi eccellenti, in manette l'ex ministro degli esteri Yazdi e alcuni giornalisti. Allora scrive Alberto Negri, il nostro inviato del Sole 24 Ore, esperto di cose medio orientali e di queste situazioni, diciamo, di crisi in quell'area. E scrive che, anche a parte la figura di Ahmadinejad, il presidente iraniano, dice: anche le grandi famiglie dei mullah si stanno innervosendo. Qualcuno legittima la protesta di piazza e comunque molti non sono d'accordo con questa lotta indiscriminata a ogni forma di opposizione. Le manifestazioni per la morte del grande Ayatollah Montazeri sono state il segnale che di islamico in questa repubblica, come dice Carrubi, è rimasta ben poco. Era dai tempi dello Shah che i mullah non finivano così pesantemente nel collimatore della repressione. Dalle piazze, scrive ancora Negri, sale sempre più forte l'appello non alla Repubblica Islamica, ma a quella iraniana. Il nazionalismo sta diventando uno dei leitmotiv della protesta. Con quali effetti? In carcere è finito Ibrahim Yazdi nel 1979, quindi ai tempi della rivolta di Khomeini, il primo ministro degli esteri di Khomeini. In una delle sue ultime interviste, nel giugno scorso, mi disse in modo chiaro: questo sistema resiste fino a quando sarà capace di rappresentare la nazione e il nazionalismo iraniano. Oggi Yazdi va dietro le sbarre perché il regime teme persino la presenza di quest'uomo anziano e malato, rimasto per decenni una voce isolata del dissenso. Come reagiranno le guardie della rivoluzione a nuove proteste? Si chiede Alberto Negri, perché obiettivamente, perché ho messo insieme questi temi, l'Iran è considerata una delle potenze mondiali che ha molto a che fare con il sostegno a certe forme di lotta e di terrorismo ispirato al Corano. Potrei dire malamente ispirato al Corano. E ecco, quindi quello che succede in Iran ha una grande importanza sullo scacchiere proprio internazionale. Allora, davanti alle proteste reiterate di questi giovani, si chiede a Alberto Negri cosa farà l'apparato repressivo di Ahmadinejad, del governo iraniano. Quindi si chiede: come reagiranno le guardie della rivoluzione a nuove proteste? Oltre alla repressione in atto, si presentano altre scelte pericolose. Come ogni regime in difficoltà, aumenterà la tentazione di trasferire all'estero le tensioni interne, cosa che in parte già accade con la questione del nucleare e le provocazioni all'Occidente e agli stati vicini, come la breve occupazione del territorio iracheno della scorsa settimana e il sostegno ai movimenti sciiti della guerriglia in Medio Oriente, dagli Hezbollah in Libano agli Houthi dello Yemen. All'inizio di quest'anno veniva data per certa anche a Washington la rielezione senza scosse di Ahmadinejad. Pochi forse credevano che dopo la repressione del giugno scorso la protesta iraniana continuasse. Quello che accade oggi smentisce ogni previsione. Per questo dall'Iran bisogna aspettarsi di tutto oltre l'immaginabile. Fu così anche nel 79, quando in pochi mesi lo Shahinshah, il re dei re, fece le valigie. Questo dunque è Alberto Negri sul Sole 24 Ore. E sempre sul Sole, ma a pagina 10 troviamo una notizia che per certi versi ridà forse un po' di fiducia in un certo senso, poiché titola il Sole: Israele porta Hamas in tribunale, promosse azioni legali in Europa per le violenze dei palestinesi. E dice l'articolo: dopo i razzi di Ugo Tramballi, dopo i razzi e le cannonate, la guerra di Gaza continua per avvocati e carte da bollo. Un gruppo di 15 israeliani, vittime in vario modo dei Qassam, cioè i missili lanciati dai palestinesi sugli insediamenti dei coloni israeliani, hanno avanzato una richiesta perché i giudici emettano un mandato d'arresto internazionale per tutti i capi di Hamas. L'accusa è crimini di guerra. Sembra una notizia quasi paradossale, e invece, come dire, la interpreto come una forma di civiltà. Insomma, meglio litigare in tribunale che spararsi addosso. Sempre sul tema internazionale, vediamo sul Corriere della Sera, che ovviamente dedica anche lui, anche questo giornale, dedica molte pagine a questo tema. Lo ripeto, è il tema principale dei giornali di oggi e ovviamente anche dei siti, eccetera, e effettivamente oscura la politica italiana, che oggi è fatta di grossa lite, cioè grossa lite nel Partito Democratico in Puglia per le candidature dell'area PD, quindi Nichi Vendola, Emiliano, eccetera. Ieri in un'assemblea si sono presi a seggiolate, e poi c'è il titolo su Berlusconi, che ha annunciato che continuerà a lavorare per l'Italia. Su questo tema torneremo nella seconda parte della rassegna stampa, sempre per segnalarvi un interessante sondaggio Sole 24 Ore Ipsos su quello che pensano gli italiani della politica italiana. Restando ancora in questa prima parte sul versante internazionale, il Corriere della Sera, tra le altre cose, a pagina 6 riporta un titolo che rievoca appunto lo Shahinshah, ovvero Faradiba. I più anziani di noi se la ricorderanno, la ex moglie dello Shah di Persia, dice: l'attacco di Faradiba al governo dei Mullah, tutto questo coraggio cambierà il paese. Faradiba, e c'è anche una foto di Faradiba, che da 71 anni, da giovane era una donna bellissimo comunque a noi che avevamo magari 20 anni all'epoca, sembrava bellissima. È stata l'ultima imperatrice della Persia e la terza moglie dello Shah Mohammad Reza Pahlavi, deposto e costretto ad abbandonare l'Iran nel 79, dopodiché morì al Cairo nel 1980. Questo dunque le pagine e i temi internazionali sui giornali di oggi. E vediamo come, ecco, ci sono questi articoli. Il versante americano: guerra ai crociati, la firma jihadista sul fallito attentato, e come dicevo prima nel titolo principale, Obama che minaccia una stretta della repressione e dell'attacco a queste bande di terroristi. I rapitori dettano le condizioni del rilascio. Qui stiamo parlando dei due italiani rapiti. Liberate i nostri compagni torturati. Sono le condizioni. Frattini: non trattiamo con i terroristi. Alla TV Al-Arabia parla un uomo dell'organizzazione di Bin Laden. Il comunicato giudicato credibile. Gli italiani, ricorda il Corriere, non sono i soli rapiti in questo momento, un francese e tre spagnoli catturati da Abu Zaid. E la scrittrice Soumaya Abdelkader, il cancellare un viso di donna non corrisponde al vero Islam, è un gesto estremo contro l'Occidente. Sempre, ho ancora un paio di minuti, sempre dalla Repubblica, è interessante l'analisi, dopo quella che vi ho letto di Lloyd, l'analisi di Mohsin Hamid. Chi è Mohsin Hamid? È uno scrittore pakistano che viene intervistato sulla pagina 2 di Repubblica e dice: attenti al razzismo antislamico, è così che si alimenta il radicalismo. Cosa dice in questa intervista? Gli chiede l'intervistatrice Francesca Caferri: come ha reagito quando ha letto il ritratto dell'attentatore, signor Hamid? Non sono stato più sorpreso di tanto. I terroristi sciolti continueranno ad esistere e dobbiamo accettarlo. Non c'è molto da fare per fermarli. Le persone su quel volo si sono salvate per pura fortuna. Allo stesso tempo ho capito che non esiste un profilo di terrorista. Questo ragazzo non era povero, non era pakistano o afghano. È un giovane nigeriano molto ben educato, sulla nulla di prevedibile finora, che ci dice che chiunque potrebbe fare una cosa simile. Ancora condanna lo scrittore pakistano il razzismo europeo, dice: quando un musulmano va in Occidente, in particolare in Europa, gli viene detto che è musulmano, non europeo, e questo rinforza la sua idea di identità musulmana. E poi dice: ma a parte la professione di fede e il Corano, sono pochi i punti su cui ci si mette d'accordo all'interno della religione islamica. Ma in Europa, qualunque sia l'opinione sull'Islam che tu hai, sei un musulmano, così vieni etichettato. Questo perché l'Europa, dice lo scrittore pakistano, sta cercando di darsi un'identità e in mancanza di meglio si riconosce come non musulmana. L'ultima domanda, ho trovato una risposta veramente, come dire, interessante, che potrebbe essere, se ci pensate, applicata a qualunque paese del mondo, in qualunque modo si viva. Lei ora vive in Pakistan, gli chiede la Caferri, uno dei paesi in cui la rabbia contro l'Occidente è maggiore. Cosa vede intorno a lei? Quello che lei dice è vero, c'è molta rabbia, risponde lo scrittore pakistano. Ma poi nella vita di tutti i giorni la gente non ci pensa. Io vengo accolto nelle case senza problemi e lo stesso vale per ogni visitatore. Nella vita di tutti i giorni i pakistani sono persone normali, a cui importa del lavoro, della famiglia e dei bambini, come i buddisti, i cristiani o chiunque altro. E lo stesso vale per tutti i musulmani. I terroristi vogliono uccidere questo senso di somiglianza. Lo dobbiamo impedire. Allora, la politica italiana, vi segnalavo prima, vi anticipavo la ricerca, il sondaggio Sole 24 Ore Ipsos, che compare a pagina 15 del Sole 24 Ore. Il titolo è: gli italiani stanchi di conflitti. Per il 67% il teatrino, inteso tra virgolette, della politica, lontano da quello che la gente sente come più importante, la Costituzione. Nel centrodestra il 63% vorrebbe modificare la carta costituzionale, ma per l'83% dell'opposizione va bene così com'è. Le alte cariche dello Stato, la fiducia degli elettori. Allora, la classifica è questa. Napolitano, gradimento bipartisan per il Colle, 84%, gradimento altissimo per il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, che strappa l'84%, seguito da il Premier, che mantiene la fiducia, Berlusconi, ha il 56% della fiducia degli italiani, e il gradimento si mantiene elevatissimo soprattutto presso il popolo del centrodestra, con una percentuale bulgara, il 91%. Resta invece sotto il 20% il gradimento del Premier tra gli elettori del PD e dell'Italia dei Valori. Fini, l'ex leader di AN, seduce più la sinistra e ha un gradimento del 48%. È uno scontro, che si legge sul Sole 24 Ore, che ha conosciuto pochi momenti di tregua negli ultimi mesi, ma secondo il 48% degli italiani il presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha ragione a smarcarsi dal Premier e rappresenta una destra moderna e rispettosa delle istituzioni. Le domande, le cui risposte troverete, vado ovviamente un po' veloce, sono tantissime domande, sono: secondo lei nel nostro paese ci sono più cose che uniscono gli italiani o più cose che li dividono? E qui la percentuale, sono più le cose che dividono, è veramente alta. Chiaramente le risposte sono sul totale degli elettori, il totale del centrodestra, il totale del centrosinistra e le altre liste. Insomma, siamo tra il 57 e il 68% che dicono sono più le cose che dividono. Ancora, rispetto alla politica, fra le due frasi che ora leggerà, quale rappresenta meglio le sue opinioni? La prima frase è: oggi conta soprattutto la capacità del leader, il fatto che siano di destra o di sinistra è secondario. Questa è la risposta prevalente, va sopra il 54-55% degli italiani pensa che oggi il leader, la leadership sia il fatto determinante, destra o sinistra chi se ne importa. Ma lei personalmente, dice, tende a fidarsi più delle persone indipendentemente dalla loro collocazione politica? A questo risponde sì il 70% degli italiani. In definitiva, a un'altra domanda, lei direbbe che l'Italia è un paese diviso? Qui il 40% degli italiani dice sì, è un paese profondamente diviso, non solo politicamente ma anche per quello che riguarda culture, tradizioni e modi di essere. Un 25-30% la pensa diversamente, poi ci sono altre risposte. Ancora, interessante, Berlusconi propone di cambiare la Costituzione che lascia troppo spazio ai giudici e poco potere al Presidente del Consiglio, le ritiene al riguardo che, qui le risposte sono chiaramente divise, il totale degli elettori dicono tutto sommato la Costituzione va bene così com'è, il 53%, il 63% degli elettori di centrodestra dicono che va cambiata, l'83% degli elettori di centrosinistra dicono che va bene così, così com'è. Ancora il Sole 24 Ore, a pagina 22 e 23, nella sezione Mondo e Mercati, i 10 capitani che nel 2010 faranno parlare di sé, qualità e innovazione nella sfida lanciata dagli emergenti. E allora ci sono il costruttore di auto cinese, i nomi adesso non ve li sto a dire, il costruttore di imprenditore di energie rinnovabili indiano, il banchiere nigeriano, eccetera, fino alla freccia nera col vizio del gol che è il calciatore ghanese Dominique Adia. Questo il Sole 24 Ore. Restiamo sempre sul versante italiano. Su Repubblica troviamo una notizia che troviamo solo qui. Quel treno segreto che batte le ferrovie, l'FS. Alla stazione di Bolzano l'addetto alle ferrovie allarga le braccia. Il treno austriaco per Milano, mi spiace, non siamo tenuti a dare informazioni. Comincia così questo articolo di Paolo Casicci sul treno, la sfida segreta al monopolio ferrovie. Nei giorni del gelo l'Eurocity austro-tedesco da Bologna al Brennero senza ritardi. E dice che dal 13 dicembre c'è questo treno formato da una partnership tra ferrovie tedesche e austriache, e dice anche che austriaci e tedeschi hanno preceduto di pochi mesi Arena Ways, una piccola compagnia torinese che entro l'anno viaggerà sulla Milano-Torino, mentre nel 2011 la NTV di Luca Montezemolo e Diego Della Valle lancerà la sua sfida ad alta velocità a Trenitalia. Su questo treno austro-tedesco si può, per esempio, una delle cose che dice, a parte il fatto che arriva puntuale, è il fatto che si può fare il biglietto a bordo senza nessuna penalità, cosa che ancora da noi, nel senso, non c'è su Trenitalia questa possibilità. Andiamo ancora a caccia di temi di cronaca. Dal Corriere della Sera vi cito a casa con la mamma fino a 40 anni. Questo è il rilevamento dell'Istat annuale, il multiscopo, quindi insomma va un po' a cercare, a caccia, a frugare nei costumi degli italiani. Secondo l'Istat il 73% dei figli tra 18 e 39 anni evita la vita da single. Allora, questo è un tema, ripeto, troviamo su tutti i giornali più o meno allargato. Il Corriere ne fa una pagina ed è interessante. Dunque, torna fuori, chiaramente, giustamente viene ripresa la foto di Padoa Schioppa, perché ricordate il l'ex ministro dell'economia del governo Prodi aveva parlato di bamboccioni, incentiviamo i bamboccioni a uscire di casa e a diventare autonomi. Allora qui il tema è che 7 figli su 10 restano a casa anche fino a 40 anni. Il rapporto Istat, fenomeno più evidente per i maschi, è al sud. Il 43% sceglie un nuovo domicilio solo quando è l'ora delle nozze. E allora problemi economici, difficoltà a mettere in piedi una vita da soli, ma osserva Giampiero Dalla Zuanna, professore di demografia all'Università di Padova, scrive un articolo che dice d'accordo, i problemi ci sono, ma negli Stati Uniti i ragazzi escono da casa a 18-20 anni, tornano solo per festeggiare il Natale e il giorno del ringraziamento. Gli anziani italiani in casa di riposo sono un terzo rispetto agli inglesi e olandesi, un terzo dei bimbi viene accudito dai nonni. Come mai succede questo? Perché da noi esiste un legame di sangue nella famiglia che è tutto italiano. E scrive tra l'altro Dalla Zuanna: è vero che molti giovani non lasciano i genitori perché, come dice l'Istat, hanno difficoltà a trovare un lavoro stabile e una casa adeguata, ma se davvero lo volessero, molti giovani potrebbero uscire lo stesso rinunciando a parte del loro benessere. Una recente ricerca di AASSVE, non so cosa sia, e colleghi mostra che i ragazzi scandinavi nei primi anni vissuti fuori dal nido, tra virgolette, subiscono spesso una drammatica caduta di reddito e di tenore di vita, ma escono lo stesso a 20 anni. Quindi questo è un articolo interessante che dovrebbero leggere anche molte mamme italiane molto legate ai loro figlioli. Bene, con questo io vi saluto, ringrazio Peter Bescapè in regia e ci sentiamo domattina per la solita rassegna stampa alle 7:30.